Capitolo 18, 25 agosto. Ho ripreso le mie solite abitudini e le mie tranquille occupazioni e sono di buon umore. Aspetto con ansia l'arrivo della primavera, poiché spero che torneremo in città. Non tanto perché la cosa offra divertimenti o distrazioni, quanto per poter rivedere il signor Huntington, che è ancora nei miei pensieri e nei miei sogni. Qualsiasi cosa io faccia, veda o senta, alla fine ha qualche riferimento a lui. Se imparo qualcosa di nuovo, penso che un giorno potrà servire anche a lui. Se scopro qualcosa di bello, in arte come in natura, lo dipingo perché lui possa vederlo. È questa la speranza che illumina la mia strada, e magari è un'illusione, ma che male può farmi, in fondo, fantasticare un po', se la cosa non mi distrae dal giusto cammino che devo seguire. E non penso che accadrà. Ho molto riflettuto sui consigli della zia e vedo con lucidità ora quanto sarebbe folle amare qualcuno che non lo merita, che non è in grado di corrispondere con sincerità ai miei sentimenti. Lo vedo con tale lucidità che sono convinta che se anche lo dovessi incontrare di nuovo e lui dovesse amarmi ancora, eventualità purtroppo poco probabile considerando le circostanze e le persone che lo circondano, e mi chiedesse di sposarlo, io lo respingerei. Almeno fino a quando non sapessi con certezza se è più vicina al vero l'idea della zia oppure la mia. Se scoprissi che la mia è sbagliata, allora non è lui che amo in realtà, ma il frutto della mia immaginazione. Ad ogni modo, non penso di sbagliarmi tanto, perché qualcosa di segreto e profondo dentro di me mi dice che ho ragione. È davvero un uomo buono sotto sotto, e che gioia poterlo scoprire. Che felicità poterlo mantenere sulla retta via se davvero ha sbagliato. O liberarlo da compagnie pericolose per preservarlo dalle cattive influenze. Come vorrei poter credere che il destino ha in serbo proprio questo per me. Siamo al 1° settembre, ma lo zio ha chiesto al guardacaccia di preservare le pernici per quando verranno i signori. Che signori? Ho domandato. Un gruppo che ha invitato per andare a caccia. Ci saranno anche il suo amico, il signor Wilmot, e l'amico della zia, il signor Borham. Lì per lì mi è parsa una notizia ferale, ma ogni delusione è scomparsa quando ho saputo che il terzo ospite sarà il signor Huntington. La zia non è affatto favorevole al suo arrivo, chiaramente, e ha provato in ogni modo a convincere lo zio a non invitarlo. Lui ha dileggiato le sue proteste e le ha risposto che era comunque troppo tardi, che il danno era stato già fatto. Aveva invitato il signor Huntington e il suo amico il signor Loboraf, quando eravamo ancora a Londra, e restava solo da decidere quando. Insomma, è sicuro, lo rivedrò. Non posso manifestare la mia gioia perché non voglio che la zia si angosci, capendo quali sono i miei sentimenti prima di essere certa di poterli assecondare. Se giudicherò opportuno soffocarli, lo farò da sola. Se al contrario capirò che il mio affetto è giustificato, allora affronterò qualsiasi ostacolo per lui. Persino la rabbia e la sofferenza della persona a me più cara. Presto lo saprò, sebbene non prima della metà del mese, quando arriveranno i nostri ospiti. Ci saranno anche due signore, la nipote del signor Wilmot e la cugina Millicent. Credo che mia zia confidi che quest'ultima, con le sue maniere gentili e la sua natura semplice e mite, possa essermi d'esempio, e che la signorina Wilmot sia invece destinata a distogliere da me le attenzioni del signor Huntington. Non mi sento in debito con la zia per questa scelta, ma in fondo stare in compagnia di Millicent mi fa piacere. È talmente brava e buona, e io vorrei tanto essere come lei, o almeno un po' più simile a lei di quanto non sia. 19 settembre. Sono arrivati da 2 giorni. In questo momento gli uomini sono usciti a caccia e le signore sono con la zia in soggiorno a ricamare. Io sono venuta in biblioteca per starmene un po' da sola perché sono triste. I libri tuttavia non mi divertono, quindi ho aperto il mio scrittoio e tenterò di descrivere al meglio e nei dettagli la causa della mia sofferenza. Fingerò che questa pagina sia come un'amica intima per me, cui confidare le mie pene. Forse non si mostrerà troppo partecipe, ma di certo non mi deriderà, e se non la mostrerò a nessuno, sono certa che terrà per sé quanto le confiderò. Dunque non potrei desiderare un'amica migliore, date le circostanze. Comincerò raccontando il suo arrivo. Ho aspettato per ore alla finestra di vedere la carrozza attraversare il cancello del nostro giardino. Gli altri erano già arrivati. Ogni volta causandomi una forte delusione, dato che non era mai lui. Il primo fu il signor Wilmot con le due signore, e non appena Millicent si fu sistemata nella sua stanza, abbandonai per qualche momento la guardia per andare a salutarla e mi fermai a conversare un po' con lei in privato. Nel frattempo eravamo diventate molto amiche. Infatti, ci eravamo scritte spesso dopo che ero ripartita. Tornai in finestra e vidi che era arrivata un'altra carrozza. Era lui? No, era la sobria carrozza del signor Borham, il quale era sulla scalinata a dirigere le operazioni di scarico dei suoi numerosi bagagli. A giudicare da quanti erano, si sarebbe detto che intendeva fermarsi 6 mesi. Dopo un bel po' arrivò anche Lord Loborough in calesse. Mi domandai se fosse uno dei suoi amici libertini, ma a guardarlo non si sarebbe detto. Aveva l'aspetto di una persona educata e misurata, che non avrei definito un compagnone. Un uomo tra i 30 e i 40 anni, alto, magro, emaciato e consumato dalle preoccupazioni. Ed ecco infine il phaeton del signor Huntington varcare al galoppo il nostro cancello. Lo vidi solo per un attimo, perché appena fu sotto il portico scese di corsa ed entrò subito in casa. Lasciai dunque che Rachel mi vestisse per la cena, cosa su cui insisteva da 20 minuti buoni, e poi raggiunsi il soggiorno, dove trovai il signore e la signorina Wilmot e Millicent Hargrave. Pochi minuti arrivarono anche Lord Loborough e il signor Borham, il quale pareva incline a dimenticare e perdonare il mio comportamento passato e speranzoso che una nostra riconciliazione e un po' di perseveranza avrebbero potuto ricondurmi finalmente alla ragione. Stavo conversando con Millicent e il signor Borham ci raggiunse. Aveva ripreso a parlarmi nel suo solito tono. Quando entrò anche il signor Huntington. Come mi saluterà? Mi domandai con il cuore in gola. Non gli andai incontro per dargli il benvenuto. Preferii girarmi verso la finestra per dominare l'emozione. Egli salutò il padrone e la padrona di casa e tutto il resto della comitiva e infine venne da me, mi strinse la mano e disse che era contento di rivedermi. La cena era pronta, la zia gli chiese di condurre a tavola la signorina Hargrave, mentre un odioso signor Wilmot porse a me il braccio. Mi toccò sedere tra lui e il signor Borham. Una volta in salotto, però, le mie pene vennero ricompensate da qualche minuto di conversazione con il signor Huntington. Durante la serata invitarono la signorina Wilmot a suonare e cantare per intrattenerci e a me chiesero di mostrare i miei disegni. Lui ama la musica e lei è brava, ma posso affermare con certezza di averlo visto più interessato ai miei disegni che alla sua esibizione. E fino a questo momento andava tutto bene. Poi sentii che diceva con una certa vivacità, riferendosi a uno dei miei disegni, «Questo qui è il migliore». Al che sollevai lo sguardo per vedere quale fosse e realizzai con terrore che stava ammirando il retro di un foglio. C'era il suo viso disegnato che mi ero dimenticata di cancellare. Ah, tanto per peggiorare le cose, feci il gesto di volerglielo strappare, ma lui lo nascose sul gilet e si abbottonò la giacca, dicendo: «E no, lo tengo io», sorridendo compiaciuto. A quel punto avvicinò una candela e radunò i disegni che aveva già visto insieme agli altri. Dovrò osservarli da entrambi i lati ora. Iniziò a esaminarli attentamente, ma io ero sicura che la sua vanità non avrebbe trovato ulteriori gratificazioni. In effetti, ero colpevole di aver disegnato sul retro di molti dei miei fogli quel volto tanto affascinante, ma, eccetto quell'unica dimenticanza, ero stata attenta a cancellare tutte le testimonianze della mia infatuazione. E tuttavia, si sa, la matita lascia spesso un segno che nessuna cancellatura riesce a eliminare, ed era esattamente quel che era successo. Tremai quando lo vidi accostare la candela per studiarli meglio, ma non credevo comunque che sarebbe riuscito a riconoscere qualcosa da quelle poche tracce. Mi sbagliavo, invece. Una volta terminato il suo esame, disse: «Ho imparato stasera che il retro dei disegni delle signore, come i poscritti delle loro lettere, rappresenta l'aspetto più interessante di tutta la faccenda». Detto ciò, si lasciò andare all'indietro sulla sedia con un sorriso compiaciuto e proprio mentre stavo cercando qualcosa da dire che potesse smorzare la sua soddisfazione, si alzò e andò a sedersi accanto ad Annabella Wilmot, impegnata a fare la smorfiosa con Lord Loborough. E lì restò tutta la sera. Lo sapevo, Ora mi disdegna perché ha capito che lo amo, mi dissi. Quel pensiero mi rattristò tanto che non sapevo più che cosa fare, finché Millicent si avvicinò e prese ad ammirare e commentare i miei disegni. Ma con lei non potevo parlare. Anzi, non potevo parlare con nessuno. Così, quando è arrivato il tè, ne ho approfittato per andare in biblioteca. Tanto non sarei comunque riuscita a berne neanche un sorso. La zia mandò Thomas a cercarmi per sapere se li avrei raggiunti per il tè, ma dissi che per quella sera ero a posto. Per fortuna, ero abbastanza impegnata a fare gli onori di casa per preoccuparsi di indagare oltre. Gli ospiti avevano fatto un lungo viaggio quel giorno e andarono a letto presto. Quando mi parve di averli sentiti risalire tutti, aprii la porta della biblioteca per andare in soggiorno a prendere il mio candeliere sulla credenza. Il signor Huntington, però, si era trattenuto più a lungo e quando uscii lo trovai ai piedi delle scale. Sentii i miei passi, malgrado stentassi a sentirli io stessa, e si girò. Helen, siete voi? Domandò. Perché vi siete allontanata? Buonanotte, signor Huntington, risposi con freddezza, evitando di rispondere alla sua domanda. Poi mi incamminai verso il soggiorno. Non mi date la mano? Disse, sbarrandomi la strada e prendendomi la mano nella sua. Vi prego, signor Huntington, lasciatemi, voglio prendere una candela. Oh, la candela può attendere, rispose. Tentai di liberare la mano dalla sua stretta. Perché avete tutta questa premura di separarvi da me, Helen? Mi domandò con un sorriso borrioso. Di certo non mi odiate, e lo sapete bene. In questo momento sì, invece. Oh no, è Annabella Wilmot che odiate, non me. Non ho alcun interesse nei confronti di Annabella Wilmot, replicai offesa. Ma io sì, disse lui con una certa intensità. Non sono affari miei, signore, gli dissi. Davvero, Helen? Lo giurereste? No, signor Huntington, ma ora voglio andare, gridai indecisa se mettermi a ridere, a piangere o a strillare per la rabbia. Ebbene andate, bizzosa che non siete altro. E poi nel liberarmi la mano osò mettermi un braccio intorno al collo e mi baciò. Tremante di rabbia, turbata e chissà che altro, presi infine la mia candela e me ne scappai in camera. Accidenti a quel disegno, non fosse stato per quello, non si sarebbe certo comportato così. E lo teneva ancora lui, un monumento eterno al suo orgoglio e alla mia mortificazione. Quella notte non dormii quasi per niente e la mattina dopo mi alzai preoccupata di poterlo incontrare a colazione, perché non sapevo come comportarmi. Fingere noncuranza e distacco non sarebbe servito, dato che ormai sapeva del mio attaccamento per lui, ma in qualche modo dovevo freddare la sua superbia, non potevo permettere che mi tiranneggiasse con quei suoi occhi allegri e luminosi. Risposi dunque al suo saluto con tanta freddezza quanta ne avrebbe desiderata la zia e scoraggiai con poche parole i suoi tentativi di parlarmi. Mi mostrai amichevole e allegra nei confronti di tutti gli altri, invece, in particolare Annabella Wilmot, suo zio, e il signor Boreham, godettero di una gentilezza aggiuntiva quel giorno. Non fu certo per frivolezza che mi comportai così, ma per dimostrare al signor Huntington che il mio distacco non era dovuto a un generale cattivo umore. Non si lasciò comunque scoraggiare dal mio atteggiamento. Mi rivolse poco la parola, ma quando lo fece notai che era sicuro di sé, diretto, consapevole che ogni sua parola suonava come musica alle mie orecchie. Allo stesso modo, tutte le volte che incrociavo il suo sguardo mi sorrideva, forse da presuntuoso, è vero, ma con tanta radiosità e dolcezza che non riuscii a rimanere arrabbiata ancora a lungo. Pian piano il mio disagio si dissipò, come accade alle nubi sotto il sole del mattino. Dopo la colazione, gli uomini partirono per andare a caccia, felici come bambini, eccetto uno. Lo zio e il signor Wilmot in sella ai loro pony, veloci, il signor Huntington e Lord Loughborough a piedi, mentre il signor Boreham ritenne di voler aspettare che il sole asciugasse bene l'erba bagnata dalla pioggia della notte e raggiungerli più tardi. Nel frattempo ci intrattenne con una lunga e dettagliata orazione su quanto sia pericoloso avere i piedi bagnati, parlando con notevole serietà, malgrado le risate del signor Huntington e dello zio. Lasciarono il cauto cacciatore a noi signore perché ci deliziasse con le sue nozioni in campo medico e uscirono con i fucili, avviandosi alle stalle per liberare i cani e vedere come stessero i cavalli. L'idea di stare con il signor Boreham tutta la mattina non mi faceva piacere, quindi mi trasferii in biblioteca con il cavalletto e cominciai a dipingere. L'attrezzatura per dipingere era ingombrante e sarebbe stata un'ottima scusa in caso mia zia fosse venuta a rimproverarmi per essermi defilata. E poi volevo davvero terminare il mio lavoro, cui mi ero dedicata con tutta la cura possibile, e desideravo che diventasse il mio capolavoro, malgrado mi fossi effettivamente imbarcata in un soggetto difficile. Avevo cercato di raffigurare una mattina di sole con un cielo azzurro intenso, luci forti e brillanti e lunghe ombre. L'erba e le foglie le avevo dipinte di un verde più acceso di quanto solitamente si faccia in pittura, per comunicare l'idea di una tarda primavera o di un inizio d'estate. Era una piccola radura. In secondo piano avevo aggiunto un gruppetto di alberi più scuri per stemperare una freschezza altrimenti eccessiva. In primo piano, però, c'era il tronco di un grande albero carico di foglie verdissime e dorate. Non dorate per via dell'autunno, ma per la forte luce del sole. Sul ramo, che si stagliava contro il gruppo di pini più scuri sul retro, c'erano appollaiate due tortore in amore, che grazie alle loro morbide piume e al colore più spento offrivano un ulteriore contrasto. Sotto l'albero c'era una bambina in ginocchio tra le margherite, con la testolina in su e i capelli biondi che le arrivavano alle spalle. Con le mani giunte e la bocca socchiusa, contemplava con stupore e serietà la coppia di uccelli innamorati che erano talmente presi l'uno dall'altra da non accorgersi neppure di lei. Mi ero accinta da poco a finire il lavoro, che richiedeva solo altre poche pennellate, quando i cacciatori di ritorno dalle stalle passarono sotto la finestra. Il signor Huntington, che doveva avermi vista lì dentro, dopo qualche istante tornò indietro, tirò su il veltro e scavalcò per venire a mettersi davanti al mio quadro. «Davvero ben fatto», disse, dopo averlo guardato qualche secondo. «Uno studio consono all'arte di una giovane donna, in effetti. La primavera che diventa estate, il mattino che va incontro al mezzodì, una bambina che sta sbocciando in fanciulla, un'attesa che è quasi realizzazione. Che dolce creatura, perché non l'avete raffigurata con i capelli scuri? Mi pareva che il biondo le si addicesse di più. Come vedete, l'ho raffigurata con occhi chiari, le forme morbide, la carnagione pallida e rosata. Oh, un'autentica ebe, davvero! Potrei innamorarmene se non avessi dinanzi a me l'artista. Com'è tenera l'innocenza! Questa giovane donna pensa che un giorno sarà corteggiata e amata come quella tortora da un ragazzo devoto e appassionato. Pensa come sarà bello tutto ciò e a come lei sarà con lui dolce e fedele. E a quanto dolce e fedele sarà lui con lei, forse? Aggiunsi. Chissà. A quell'età l'immaginazione è fervida e non ha davvero confini. Pensate che questa sia una fervida illusione, dunque? No, il mio cuore dice il contrario. Un tempo forse avrei pensato diversamente, ma oggi mi dico: alla ragazza che amo giurerò eterna fedeltà, estate e inverno, in giovinezza e in vecchiaia, nella vita e nella morte. Parlò con tanta serietà che il cuore prese a battermi forte per la gioia. Poi, dopo un istante, cambiò tono e mi domandò con una certa malizia se avessi altri ritratti. No, gli dissi arrossendo per l'imbarazzo e per la rabbia, ma sul tavolo c'era il mio raccoglitore dei disegni e lui si sedette per dare un'occhiata. Signor Huntington, esclamai, non lascio mai vedere a nessuno i miei disegni incompleti. Misi una mano sul raccoglitore, ma lui non lasciò la presa e disse di amare i disegni incompleti più di qualsiasi altra cosa. Ma io non amo mostrarli, risposi, e non vi permetto di prendere il mio raccoglitore. Oh, allora lasciatemi il contenuto, replicò. E così dicendo, mentre io gli strappavo di mano il raccoglitore, tirò via la maggior parte dei fogli che c'erano dentro e li guardò velocemente. Caspita, eccone un altro, disse mettendosi un ritaglio ovale nel taschino della giacca. Era uno schizzo di ritratto, ma mi era riuscito bene e avevo deciso di colorarlo. Ma non volevo assolutamente che lo tenesse lui. Signor Huntington, gridai, dovete restituirmi quel disegno, non avete alcun diritto di tenerlo, ridatemelo o non vi perdonerò. Più le mie proteste si facevano energiche e più esasperava la situazione offendendomi con le sue risate. Alla fine me lo restituì. D'accordo, se è davvero tanto importante per voi, tenetelo pure. A riprova di quanto quel disegno fosse importante per me, lo presi, lo strappai e lo gettai nel camino. Un gesto che non si aspettava, evidentemente. Rimase a fissare per qualche istante il tesoro che andava bruciando nel fuoco e poi, in tono indifferente, disse: Bene, ora vado a caccia. E se ne andò dalla stessa finestra dalla quale era entrato. Si mise il cappello, riprese il fucile e scomparve, lasciandomi confusa, certo, ma non abbastanza da impedirmi di terminare il lavoro. Sentivo comunque di essere soddisfatta per averlo indispettito. Tornata in soggiorno, seppi che il signor Borham aveva finalmente deciso di raggiungere gli altri a caccia e mi proposi di accompagnare le signore a fare una passeggiata per mostrare ad Annabelle e a Millicent le bellezze della campagna, dopo il pranzo, per il quale i cacciatori non avevano in programma di rincasare. Rientrammo in giardino dopo una lunga escursione e proprio in quel momento i cacciatori, sporchi e stanchi, stavano tornando. Tagliarono per il prato pur di non incontrarci, mentre il signor Huntington, offendendo il senso di decoro della zia, ci venne incontro sporco com'era, macchiato del sangue delle sue prede, coprendo di attenzioni e sorrisi tutte eccetto me. Prese a camminare tra Annabella Wilmot e me e a raccontare le avventure di quella giornata con tale simpatia che se fossimo stati in altri rapporti mi avrebbe divertita tantissimo. Ma lui parlava solo con Annabella e preferì lasciare che a ridere fosse soltanto lei, ostentando una totale indifferenza. Camminando qualche passo indietro e posando lo sguardo ovunque tranne che su di loro. La zia e Millicent erano davanti a noi che camminavano a braccetto, conversando di qualche argomento serio. E infine il signor Huntington si girò verso di me e mi sussurrò: Perché avete bruciato il mio ritratto, Helen? Desideravo distruggerlo. Risposi in un tono brusco che ormai non ha alcun senso rimpiangere. Ebbene, allora se per voi non sono abbastanza importante, sarà meglio che rivolga le mie attenzioni a qualcuno che mi apprezza. Lì per lì pensavo che scherzasse, che il suo fosse un gioco, che fingesse di essere offeso e rassegnato, ma subito dopo andò a rimettersi accanto alla signorina Wilmot. E da quel momento in poi, per tutta la sera, il giorno dopo, quello successivo e quello dopo ancora, e l'intera mattina di oggi, giorno 22, non mi ha più degnata di una parola o di uno sguardo gentili. Si è rivolto a me solo se era strettamente necessario e mi ha guardata sempre solo con una freddezza e un'ostilità che non avrei mai sospettato in lui. La zia ha notato il cambiamento. Non ha detto né fatto niente, ma vedo che ne è contenta. L'ha notato anche la signorina Wilmot, che di sicuro lo attribuisce al suo grande fascino e alla sua maggior capacità di seduzione. Io invece sono tristissima, molto più di quanto mi faccia piacere riconoscere. L'orgoglio, poi, che mi ha già messo nei guai, non mi è di alcun aiuto a tirarmene fuori. È chiaro che lui non aveva intenzione di ferirmi, e il suo voleva essere solo un gioco. Mentre il mio rancore rabbioso, la mia reazione così forte e sproporzionata, l'hanno ferito nel profondo, offeso, e ho paura che non mi perdonerà. Solo per uno scherzo, poi, si è convinto di non interessarmi e continuerà a pensarlo. Io lo perderò per sempre e Annabella alla fine lo conquisterà. Eppure non mi lamento per la mia sconfitta, né per il suo trionfo, quanto per la delusione delle mie buone speranze per lui. Lei non merita il suo affetto e mettendo il proprio cuore nelle sue mani si condannerà alla rovina. Annabella non può amarlo perché pensa solo a se stessa, non sa apprezzare quanto di buono c'è in lui perché non lo vedrà neppure, non se ne prenderà cura. Non solo non farà nulla per correggere i suoi errori e porvi rimedio, ma peggiorerà la situazione aggiungendoci i propri. Mi chiedo anche se alla fine non lo tradirà. Dato che a quanto vedo tiene il piede in due staffe, con lui e con Lord Loboraf. Si diverte con l'allegro Huntington mentre cerca di irretire il serioso Loboraf, e se riuscirà a conquistarli entrambi, di sicuro il bel plebeo non avrà chance contro il suo nobile rivale. E se anche lui si è reso conto di questo doppio gioco, la cosa non sembra averlo scoraggiato, ma ha aggiunto anzi un po' di gusto a una conquista altrimenti troppo facile. Sia Wilmot che Borham hanno approfittato della sua indifferenza nei miei confronti per tornare a farsi avanti. Se fossi come Annabella o come altre signore, userei la loro pervicacia a mio favore per incoraggiare un riavvicinamento. Ma anche mettendo da parte la giustizia e l'onestà, non potrei mai farlo. Le loro attenzioni mi irritano già abbastanza per pensare di incoraggiarle ulteriormente, e inoltre non credo che funzionerebbe. Mi guarda impassibile patire le premure, i sermoni dell'uno e le invadenti persecuzioni dell'altro, senza mostrare compassione per me né rancore per i miei oppressori. Ma evidentemente non mi amava, o non mi avrebbe lasciata andare tanto facilmente, né manterrebbe con gli altri tanto buon umore, scherzando con lo zio e con Lord Loboraff, coccolando Millicent Hargrave e corteggiando Annabella Wilmot. Ma perché non lo odio? Si vede che lo amo, altrimenti non lo rimpiangerei così tanto. Devo essere forte e togliermelo dal cuore. Ma ecco che suona la campanella della cena e arriva la zia a rimproverarmi per essere rimasta a scrivere tutto il tempo invece di stare insieme agli altri. Quanto vorrei che fossero già tutti ripartiti. Capitolo 19. 22 settembre. Notte, che cosa ho fatto? Come finirà? Non so come calmarmi, non riesco a dormire. Ho nuovamente bisogno del mio diario. Stanotte mi confiderò con la carta e domani darò corso ai miei pensieri. Mi sono presentata a cena con l'obiettivo di mostrarmi affabile e di buon umore e ci sono anche riuscita bene considerando il mal di testa e l'angustia che provavo. Non capisco cosa mi succeda negli ultimi tempi. Sembra che le mie forze fisiche e mentali siano venute meno. Non saprei come spiegarmi altrimenti la debolezza che ho dimostrato. E in effetti è da un paio di giorni che non mi sento bene. Dormo e mangio poco, non faccio che rimuginare e sono sempre nervosa. Ma tornando alla serata stavo cantando e suonando per le signore su richiesta della zia e di Millicent in attesa che arrivassero gli uomini. Alla signorina Wilmot non interessa sprecare le sue virtù musicali per un pubblico di sole donne. Millicent mi aveva richiesto un pezzo scozzese e io lo stavo proprio eseguendo quando sono entrati. Huntington ha raggiunto subito Annabella. «E voi, signorina Wilmot, perché non ci suonate qualcosa?» ha detto. Coraggio, sono sicuro che lo farete, sapendo che sono stato per tutto il giorno affamato e assetato del suono della vostra voce. Su, il pianoforte è libero. In effetti, sentendo quel che le stava dicendo, l'avevo liberato subito. Se fossi stata più lucida, mi sarei unita serenamente ai suoi incoraggiamenti, così da non dargli soddisfazione se mi aveva inferto quel torto per dispetto, o da farglielo notare se invece non se ne fosse reso conto. Invece ero talmente ferita che riuscii solo a liberare velocemente lo sgabello per andarmi a sedere sul divano con uno sbuffo a malapena soffocato. Sapevo bene che Annabella era più dotata di me, ma non mi sembrava una buona ragione per mortificarmi. I tempi e i modi della sua richiesta suonavano come un'offesa deliberata nei miei riguardi e avrei voluto piangere per la rabbia. Annabella, intanto, prese posto al pianoforte, dedicando al signor Huntington due dei suoi pezzi favoriti e interpretandoli così bene che persino la mia rabbia lasciò posto all'ammirazione. E ho ascoltato con un piacere malinconico la sua voce melodiosa, così ben accompagnata dal tocco caldo e vivace delle sue dita. E mentre le mie orecchie bevevano questo suono, i miei occhi guardavano il suo ascoltatore più devoto, traendone una gioia pari o superiore. Uno sguardo e un'espressione così vivaci, un sorriso dolce che appariva e scompariva come il sole in una giornata d'aprile. Non avrebbe dovuto meravigliarmi che avessi avuto fame e sete di sentirla suonare. Il mio cuore gli ha subito perdonato l'offesa e mi sono vergognata di aver provato tanto rancore per una simile sciocchezza e di nutrire tanta invidia per lei, malgrado il piacere di ascoltarla con sincera ammirazione. Finito il secondo pezzo, ha fatto correre scherzosamente le dita sul pianoforte e ha detto: «Bene, cosa volete sentire adesso?» Si era rivolta però a Lord Loboraff, che era seduto un po' più lontano dietro di lei. Anche lui l'aveva ascoltata con una certa attenzione, ma a guardarlo bene si capiva che, come me, provava un misto di piacere e di tristezza. Con quello sguardo, Annabella sembrava volergli dire: «Adesso è il vostro turno, per lui ho già suonato e ora voglio gratificare voi». Sentendosi incoraggiato, il baronetto ha sfogliato gli spartiti e ha scelto un pezzo che avevo notato anche io poco prima e che avevo trovato interessante per l'associazione con il tiranno che governava in quel momento i miei pensieri. Ero così turbata che non riuscii ad ascoltare quelle parole cantate con tanta dolcezza senza provare un'emozione forte e difficile da controllare. Ho sentito salirmi le lacrime agli occhi e ho dovuto nascondere il viso nel cuscino del divano per non farmi vedere. Una canzone dolce e malinconica che mi è rimasta ben impressa nella memoria. Addio a voi tutti, ma non addio ai miei più intensi pensieri per te, che nel mio cuore resteranno per sempre a rallegrarmi e confortarmi. Oh, meraviglia piena di grazia, se tu non avessi incontrato i miei occhi, non avrei mai creduto che un volto vivo potesse vincerne uno immaginato. Se non potrò mai più vedere quelle forme e quel volto tanto amati, o udire quella voce, mi accontenterei di poterne conservare il ricordo. La tua voce, il cui magico suono risveglia un'eco nel mio petto e genera un sentire che da solo rende la mia anima beata. I tuoi occhi allegri, un raggio di sole che illumina la mia memoria e lo splendore di un sorriso che nessuna umana tenerezza può esprimere. Adieu, ma lasciami almeno una speranza, cui non riesco a rinunciare. Il disprezzo mi ferisce, la freddezza mi raggela, eppure quella è rimasta nel mio cuore. Chissà che un giorno il cielo non ascolti le mie preghiere e chieda al futuro un riscatto per il passato, di gioia per questo mio patire. E sorrisi per le mie tante lacrime. Finita la canzone, non desideravo altro che uscire da quella stanza. Il divano non era tanto lontano dalla porta, ma non avevo il coraggio di tirar su la testa, perché avevo capito che il signor Huntington era vicino a me, e sentendolo scambiare qualche battuta con Lord Loboraf, rivolto proprio nella mia direzione. Poteva darsi che gli fosse giunto alle orecchie un mio singhiozzo, convincendolo a girarsi verso di me. Santo cielo, mi sono imposta di arginare ulteriori debolezze, mi sono asciugata le lacrime e appena ho creduto che si fosse finalmente girato, mi sono alzata e sono fuggita, rifugiandomi nel mio posto del cuore, la biblioteca. Non c'era luce, a parte il debole bagliore del fuoco abbandonato nel camino, ma non ne avevo bisogno. Mi serviva solo un posto in cui dar libero sfogo ai miei pensieri, senza che nessuno mi vedesse o mi disturbasse. A quel punto mi sono messa a sedere su un poggiapiedi sotto la poltrona, ho appoggiato la testa sul cuscino e mi sono messa a rimuginare finché non ho ripreso a piangere come una bambina. Dopo qualche istante ho sentito aprirsi piano la porta e qualcuno entrare nella stanza. Ho immaginato che fosse uno dei domestici e non me ne sono preoccupata. Poi la porta si è richiusa, ma sapevo di non essere sola. Una mano mi ha toccato dolcemente una spalla e una voce mi ha chiesto: Helen, cosa avete? Non ho potuto rispondere. Me lo dovete dire e me lo direte, ha aggiunto con forza prendendomi la mano e gettandosi in ginocchio accanto a me. Ho prontamente ritirato la mano. La cosa non vi riguarda, signor Huntington. Ne siete certa? Mi ha chiesto. Davvero non stavate pensando a me mentre piangevate? Ah, era insostenibile. Ho provato ad alzarmi, ma ero inginocchiato sopra il mio vestito. Dovete dirmelo, ha insistito. Se mi stavate pensando, ho da dirvi qualcosa. In caso contrario, me ne andrò. E allora andatevene, gli ho gridato. Ma poi, temendo che lo facesse davvero o che potesse non tornare indietro, ho subito aggiunto: Oppure ditemi quel che avete da dirmi. Dunque, cosa devo fare? Mi ha chiesto lui. Io vi parlerò se mi confessate che stavate piangendo per me. Parlate, Helen. Signor Huntington, siete davvero impertinente. O forse pertinente, direi. D'accordo, se non volete dirmelo, avrò pietà del vostro orgoglio e prenderò il vostro silenzio per un sì. Supponendo di essere io l'oggetto dei vostri pensieri e il motivo delle vostre lacrime. A dire il vero, se lo negherete, non vi confiderò il mio segreto, mi ha detto, e io a quel punto non l'ho più interrotto né respinto, nonostante mi avesse di nuovo preso la mano e con l'altra mi stesse quasi abbracciando. Ebbene, mi ha detto, Annabella Wilmot al vostro confronto è come una sontuosa peonia rispetto a un tenero e selvatico bocciolo di rosa bagnato di rugiada. Io sono pazzo di voi, Helen, e vi prego ora ditemi se saperlo vi rende felice oppure no. Vedo che di nuovo non dite nulla. Lo prenderò come un altro sì e aggiungerò che io non posso vivere senza di voi e se il vostro dovesse essere un no, potrei anche impazzire. Promettetemi un sì, lo farete? Esclamò stringendomi forte tra le braccia. Ma no, no, bisogna che lo chiediate ai miei zii. Se il vostro è un sì, non potranno dirmi di no. Non saprei, mia zia non vi apprezza. Ma voi sì, Helen. Ditemi che anche voi mi amate e me ne andrò. Vorrei che ve ne andaste veramente, ho detto. Lo farò, ma prima dovete dirmi che mi amate. Oh, lo sapete già, gli ho risposto. E allora mi ha stretto tra le braccia, coprendomi di baci. Proprio in quel momento la zia ha aperto la porta, restando impalata lì, davanti, con il candeliere in mano, guardando sconvolta e atterrita, prima il signor Huntington e poi me, che nel frattempo ci eravamo alzati di scatto ed eravamo a una certa distanza l'uno dall'altra. Il signor Huntington, tuttavia, è tornato in sé rapidamente e con ammirevole rapidità ha detto: Vi prego di scusarmi, signora Maxwell, non giudicatemi troppo severamente. Ho appena chiesto a vostra nipote di accettare, nella buona e nella cattiva sorte, la mia proposta, e lei, da ragazza per bene qual è, mi ha risposto che non può decidere senza l'approvazione degli zii. Per favore, non condannatemi a una disgrazia senza fine, perorate la mia causa. Se voi mi accetterete, son certo che il signor Maxwell non mi rifiuterà. Ne riparleremo domani, signore, gli ha risposto lei con freddezza. Certe decisioni vanno prese con serietà e maturità. Adesso sarà meglio che torniate di là in soggiorno. Oh, nel frattempo vi supplico, siate indulgente. Signor Huntington, sappiate che nessuna indulgenza nei vostri confronti potrà influenzare quel che ritengo giusto per la felicità di mia nipote. Lo so, lei è un angelo e io una creatura mostruosa e superba a pensare di poter avere questo tesoro tutto per me, ma preferirei morire che vederla accanto al migliore degli uomini e in nome della sua felicità sacrificherei corpo e anima. Corpo e anima? Ebbene, darei la vita, sì, ma nessuno ve lo chiederà. In questo caso allora la dedicherei la mia vita a migliorare, per tutelare. Avremo modo di parlare di tutto questo in un altro momento, signor Huntington, ma lasciate che vi dica che avrei sicuramente accolto con maggior favore la vostra proposta se aveste scelto un momento e un luogo diversi per dichiararvi e se posso permettermi anche un modo diverso. Dovete capire, signora Maxwell, che vi prego di scusarmi, signor Huntington, lo ha interrotto, ma ora siete desiderato di là. E si è girata verso di me. Helen. Sarete voi a parlare per me, allora, ha detto lui, e poi se n'è andato. Ora è meglio che tu vada in camera. Anche con te discuterò di questo domani. Zia, ti prego, non essere arrabbiata. Non sono arrabbiata, cara, ma stupita. È vero che gli hai detto di non poter accettare la sua proposta senza il nostro consenso? Sì. E allora come hai potuto permettergli di... Oh, non ho potuto fermarlo, zia, ho esclamato scoppiando a piangere. Non per dispiacere né per paura della sua disapprovazione, ma per sfogare l'agitazione che sentivo dentro. Questo mio turbamento deve averla colpita. Perché mi ha parlato in tono più dolce, ripetendomi di salire in camera mia. Mi ha dato un bacio sulla fronte e mi ha augurato la buonanotte dandomi la sua candela. Così sono venuta in camera, ma sono così sveglia che non riesco a dormire. Dopo aver scritto tutto, mi sento più calma e proverò a mettermi a letto, cercando di abbandonarmi al dolce ristoro della stanca natura.